La zona militare sfavilla mentre lei passa spettinata, cielo detersivo e di corsa. Fiorisce bene la città, mostro di vestiti, io sono un cinema di medicine, adolescenza fumogeno per coprire la coin di piazza. 5 giornate il macello di neve, stava ancora in Germania e ti parlavo di cose tristi, ma mastodontiche dopo le avventure al Bracchi, nella stanza slot VLT è il tram che sfonda l'autunno e forma un buco di 1000 vicoli. Io mi annoio sulla scala antincendio, vado a est, là ci sono più divani da bruciare. Parabora papapara, parabora papapara, parabora papapara, parabora papapara, parabora papapara, parabora papapara, parabora papapara, parabora. La tratta Piola, villa fiorita, è un patrimonio di ganci, grano, cantiere spaccato e viola violento. Lei è una tigre timida, divora la campagna degli aeroporti e i vestiti di suo padre con la mattina capovolta, muota rana nelle dispense e prera e sepolta di tramonti, luccica strana e sprofonda nei fiori oscuri e nei fiori chiari, nei super spacci alimentari, e intanto scoppiano le dicole, i cicei sono zeppi di lucertole e io sputo dalla finestra, ho una mansarda che funziona come un veliero, vieni da me, facciamo la pasta al burro a mezzanotte. Paravora papà era, paravora papà era, paravora papà era, paravora papà era, paravora papà era, paravora papà era. Vedere le rondini che divampano dalle gru sono momenti di alta pasticceria. Parabara papapara.